Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Siccome si sta per chiudere il Giro d'Italia e a noi il ciclismo suscita sensazioni forti, vi raccontiamo l'epopea di uno sportivo particolare. In genere noi quando facciamo queste cose partiamo dai palmarès, dalle imprese che l'hanno consegnato alla storia, le vittorie, le coppe vinte. Bene, oggi il nostro protagonista non è solamente questo, perché in questo sport di sofferenza e di fatica qual è il ciclismo, e stiamo parlando di uno che ha vinto 171 volte, questo signore ha ottenuto i suoi risultati malgrado una patologia piuttosto invalidante. È una tachicardia ricorrente che lo obbligava a delle soste forzate. Bene, lui è in realtà è ricordato per le sue vittorie, ma anche per il suo cuore che faceva i capricci, ma soprattutto per quella volta che lui non vinse, perse per pochi metri un mondiale che gli venne scippato proprio da un amico. Di sportivi che a un soffio dalla gloria se la sono vista sfuggire ce ne sono stati parecchi, però questa volta la non vittoria del nostro protagonista alla fine è diventata un suo marchio di fabbrica, quasi più importante dei suoi successi. Lo ha fatto amare e ricordare molto di più che non se avesse vinto. Oggi parliamo del grandissimo Franco Bitossi, una delle leggende del ciclismo mondiale di quel periodo, anni 60 e 70, soprannominato per la sua cardiopatia cuore matto. Allora si faceva solo l'elettrocardiogramma e in quello il mio disturbo non si vedeva. Oggi con gli esami periodici, con i test di 24 ore si vede tutto. Un corridore con un problema del genere, come lo avevo io, non lo avrebbero fatto gareggiare assolutamente. In effetti, visto che per fortuna Franco Bitossi oggi è un signore di oltre 70 anni che gode di ottima salute, non possiamo che rallegrarci che i controlli dell'epoca fossero stati così poco approfonditi, perché altrimenti l'Italia e il mondo intero si sarebbe persa un campione così straordinario, un eroe del ciclismo degli anni d'oro, degli anni di Gimondi e del Cannibale, di Adorni, di Motta, di Dancelli, insomma un periodo veramente glorioso di uno sport che ci regalò, soprattutto in quella decade, emozioni a non finire. Bitossi con la passione della bicicletta ci nasce, è toscano, originario di Camaioni di Carmignano in provincia di Prato, e la Toscana è una regione molto prolifica in fatto di ciclisti. Lui nasce il 1 settembre del 40, in un periodo in cui la bicicletta è il mezzo di locomozione per eccellenza e il ciclismo è uno sport seguitissimo, con l'Italia divisa in due tra Coppi e Bartali. Come tutti quelli della mia età, ho vissuto il dualismo Bartali-Coppi e mi sono appassionato alla bicicletta tifando per Gino. A Camaioni andavamo con le bici da passeggio perché non c'erano le automobili e qualche volta si organizzavano delle gare tra di noi. All'ora di pranzo si usciva con gli amici per qualche sfida tra ragazzi. Solitamente si scalava la salita al castello di Montelupo e mi accorsi che andavo più veloce degli altri. Eh sì, Franco Bitossi è forte da subito, più forte degli altri, è uno scalatore abituato a quelle salite molto lunghe, quelle che non finiscono mai sui colli toscani. Insomma, qualcuno gli suggerisce di provarci sul serio, di trovarsi una squadra. Così dall'agosto del 57 inizia a correre, ma a lavorare in fabbrica. Si allena la sera, quando esce dal lavoro, i sabati, le domeniche, inizia a fare qualche gara, si piazza bene, allora fa un investimento, compra una bici migliore. Il 29 giugno del 58 vince per la prima volta. Questo risultato lo mette in luce, riceve le prime offerte dalle squadre dilettantistiche, si accasa, come si dice in gergo, con la Porta Romana di Firenze e i successi cominciano a arrivare uno dietro l'altro. 10 vittorie come allievo, 21 come dilettante. Nel 61 è il momento di passare professionista grazie a una segnalazione del grande Alfredo Martini, altro bravissimo campione toscano che poi diventò il CT della nazionale italiana, e Bitossi entra a far parte del club Filco di Fiorenzo Magni. Però ha un problema, ed è un problema molto serio. Con la mia aritmia cardiaca ero sempre costretto a fermarmi e poi ripartire. Facevo buoni risultati nelle corse a tappe, perché dopo 3 giorni il problema non mi dava più fastidio. Mi scaricavo la tensione e gli attacchi non mi venivano più. Eh sì, perché Franco Bitossi soffre di tachicardie spaventose, il cuore gli accelera in maniera vertiginosa, l'ossigeno fatica a arrivargli, gli manca il fiato, si deve fermare, chissà se è cardiopatia o emotività o crisi di panico. E in realtà in quegli anni le diagnosi non sono così sottili e approfondite, però di fatto è che è un ciclista che ogni tanto deve fermarsi, magari sta per iniziare la volata e lui deve rallentare o addirittura posare il piede a terra perché non ce la fa. E insomma, con un cuore così non sembrano le premesse giuste per una carriera da campione. Il falco e il gabbiano. E la prima vittoria importante da professionista di Franco Bitossi arriva nel 61 alla Tre Giorni del Sud. Il 22enne con la maglia della Filco vince la Campobasso Termoli. Poi non riesce più a infilare altri primi posti perché è colpa della sua emotività eccessiva, della sua tachicardia o di quello che lui pensa sia una tachicardia, e spesso deve fermarsi. Però lui è uno tosto, è un duro, sa che la sua patologia può creargli dei pericoli durante certe soste forzate, e forse lo sfiora anche l'idea di piantarla lì. Anche il suo club ha qualche dubbio. Nel 62 cambia, va alla Spring Oil Fuchs con il mitico allenatore Valdemaro Bartolozzi, grande ex ciclista. A quel tempo il campione è Gastone Nencini e lui diventa il suo gregario, ed è con questa formazione che nel 64 corre al Giro d'Italia, quindi la popolarità comincia a arrivare, anche se in quel Giro d'Italia ci sono campioni come Vittorio Adorni, Gianni Motta e Jacques Anquetil, che tra l'altro vincerà il Giro quell'anno. Ma in quel Giro d'Italia Franco Bitossi vince 4 tappe, la Brescia-San Pellegrino, la Montepulciano-Livorno, la Livorno-Santa Margherita-Ligure, ma soprattutto la Cuneo-Pinerolo, tappa tremenda, leggendaria, quella nella quale nel 49 Fausto Coppi andò in fuga giungendo a Pinerolo con quasi 12 minuti di vantaggio su Gino Bartali. Ma sentite cosa dichiara di recente Bitossi a proposito di una di queste tappe vinte. Io dico sempre che per me la vittoria più bella non è un campionato italiano o un'altra gara importante, ma è la vittoria che ho fatto a San Pellegrino Terme nel giro del 74, che è stata la mia prima vittoria, non proprio la prima da professionista, avevo vinto subito il debutto a fine stagione nel 61, ma è stata la vittoria delle 4 che ho fatto a quel Giro d'Italia che mi ha dato la consapevolezza che potevo essere ancora un corridore, perché ero sull'orlo, se non sapevo se continuavo smettevo. Invece aver vinto il terzo giorno a San Pellegrino e poi successivamente ho fatto 4 secondi, ancora 3 vittorie, il Gran Premio della Montagna mi ha dato la spinta per... San Pellegrino mi ha dato la spinta e la consapevolezza che ero ancora la promessa, che ero da dilettante. L'emozione gli fa addirittura sbagliare decade, perché dice 74, ma l'impresa del 64, e quindi lui ritiene che la tappa di San Pellegrino sia più importante delle altre, addirittura della Cuneo Pinerolo, proprio perché la sua guerra non è contro gli avversari ma contro se stesso. In quell'anno vince anche il Gran Premio della Montagna, che è una classifica importantissima del Giro d'Italia, quella che premia gli scalatori, quelli che arrivano per primi al termine delle salite, e lui il Gran Premio della Montagna lo vincerà per 3 anni di fila, 64, 65 e 66. Nel 65 lui passa alla squadra della Filotex, maglia blu con striscia bianca, me la ricordo perfettamente, era sempre diretta dal grande Valdemaro Bartolozzi, e in quell'anno lui vince il Tour de Suisse, il Giro della Svizzera, e la Bormio-Brescia al Giro d'Italia. Il Giro di Adorni, Bruno Raschi scrisse che era il più bel rosa dopo Coppi. Si arrivò a Brescia, classifica già definita, Adorni padrone sicuro della maglia rosa, ma qui si arrivò con una gran volata e Franco Bitossi seppe vincere con una progressione infinita davanti a Vito Taccone. Pensate ai personaggi di quei giorni. Franco Bitossi con una volata lunga, con rapportone, alza le braccia, è primo. Vito Taccone è secondo. Vittorio Adorni vincerà questo giro con 11 minuti di vantaggio su Italo Ziglioli. E poi nel 66 ancora vittorie importanti, due tappe al Tour de France per esempio e due al Giro d'Italia. E insomma, Bitossi ormai è un ciclista di vertice. Adorni è in crisi, Bitossi si volta ripetutamente a guardare e a controllare l'entità del distacco. Jimenez si accorge della crisi della maglia rosa e attacca. Sale in piedi nella caratteristica posizione degli scalatori, scatta in continuazione e soltanto Franco Bitossi resiste a quel ritmo. Anche Ziglioli è poco dopo i due. Sono loro i grandi protagonisti dell'arrampicata al Mottarone. Ed è Corona, ecco l'arrivo solitario di Franco Bitossi, gran protagonista anche nel finale. Una bella vittoria di tappa, la sua attesa e meritata. Insomma, quel grande ciclismo che viveva dell'epopea della lotta Gimondi-Merckx aveva anche gente come Vittorio Adorni, Gianni Motta, Zileoli, Dancelli, ma soprattutto Franco Bitossi, che ha uno stuolo di fan che lo segue con passione, accumula vittorie, il Giro di Lombardia, la Tirreno Adriatico, terzo la Milano-Sanremo, ha un'altra tappa al Giro d'Italia del 67 e poi i due tappe al Giro del 68, due al Tour de France, campionato di Zurigo e poi un quarto posto in quei mondiali di Imola nei quali Vittorio Adorni vinse con una grandissima fuga solitaria e Bitossi è nel gruppo che insegue e quindi naturalmente essendo leale verso il suo capitano deve semplicemente proteggerlo e facilitare la fuga di Adorni. Anni dopo qualcuno non sarà altrettanto leale nei suoi confronti e dopo vi racconterò, vi spiegherò perché. Però lui, anche quando vince, non è mai del tutto sicuro di sé. Sentite cosa dice ad Adriano De Zan nel 70, alla vigilia della partenza del Giro d'Italia. Franco Bitossi, tipo estremamente emotivo, sente forse eccessivamente questa vigilia del Giro d'Italia. Fatto sta che il suo morale non è propriamente alle stelle. Sì, infatti siamo alla vigilia del Giro e io non è che mi senta nelle condizioni in cui speravo di arrivarci. Ci sono tante cose che non vanno. Fisicamente mi sembra di non essere nelle migliori condizioni. Chissà se questa era pretattica o comunque il problema, il male oscuro di Bitossi lo attanagliava anche quando stava partendo il giro. Fatto sta che in quel giro in cui lui diceva che non si sentiva nelle migliori condizioni vince 4 tappe e poi vince 2 tappe al Giro di Svizzera. Insomma, continua a vincere e vince parecchio. E soprattutto si specializza in qualche modo in un altro titolo molto importante, quello di campione italiano. Lo vincerà 3 volte, nel 70, nel 71 e nel 76. Nel 70 batte Marino Basso. Segnatevi questo nome perché è l'uomo col quale Bitossi avrà a che fare nel 72 per un episodio incredibile passato alla storia del ciclismo. Il falco e il gabbiano. Anche oggi il protagonista della nostra puntata è il grande ciclismo. Stiamo raccontando l'epopea di un campione che forse non avrebbe neanche dovuto correre perché era affetto da una tachicardia ricorrente che lo obbligava a fermarsi durante la gara, tachicardia che gli ha regalato il soprannome di Cuore Matto. Ma forse questa tachicardia era più che altro un suo male oscuro, una specie di crisi di panico. Non lo sapremo mai. Il protagonista di oggi è Franco Bitossi, grandissimo campione di ciclismo, professionista dal 61 al 78, 171 vittorie, 21 tappe del Giro d'Italia, 4 al Tour de France, 3 volte campione d'Italia. Abbiamo ripercorso le tappe più importanti della prima parte della sua carriera, ma arriviamo all'anno 1970, alla conquista del titolo di campione italiano che vincerà nuovamente nel 71 e nel 76. ma è l'anno dopo, il 1972, che Franco Bitossi diventa protagonista di qualcosa di assolutamente unico, un evento tra i più straordinari commentati nella storia del ciclismo, che ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni, fa parlare e fa discutere per la sua particolarità, per l'eccezionalità dei fatti. Siamo a Gap, alla regione francese della Provenza, tra le Alpi, la Costa Azzurra. Qui nel 72 si svolgono i campionati del mondo di ciclismo su strada, 6 agosto. Percorso 272 chilometri. Super favorito naturalmente è Eddy Merckx, il cannibale, che quell'anno ha vinto tutto, la Milano-Sanremo, il Giro d'Italia, il suo quarto Tour de France consecutivo. Il circuito di Gap è un circuito non particolarmente difficile, gli italiani sono incollati davanti alla TV, la lunghezza del percorso fa sì che la selezione naturale avvenga più sulla fatica che non sugli strappi di salita. All'ultimo giro 7 corridori vanno in fuga, tra questi 7 ci sono 3 italiani, sono Franco Bitossi, Michele Dancelli, Marino Basso, poi c'è un francese, Cyril Guimard, poi c'è Zoetmelk, l'olandese, il danese Mortensen e ovviamente il cannibale Eddy Merckx. A 4 km dall'arrivo comincia la bagarre, il francese Guimard tenta la fuga, Bitossi lo segue. Ero fresco perché stavo alla ruota del francese. Ho pensato, Merckx è un amico di Guimard, non si sta dannando per seguirlo. Dancelli e Basso sono italiani, non mi seguono di certo. Guimard è stanco. Solo Zoetmelk e Mortensen potrebbero opporsi, ma sono in minoranza. Il ragionamento è perfetto, i due se ne vanno in fuga. A 1 km e 300 metri dalla fine Guimard è sfinito, rallenta, molla il colpo e a quel punto Bitossi gioca la sua carta. Ha una progressione incredibile, è da solo in vista del traguardo, alle sue spalle tutto sembra a suo favore, due suoi compagni Basso e Dancelli sono col gruppo inseguitore, insomma lo aiuteranno sicuramente, lui si sente la vittoria in tasca. Ancora Bitossi si volta, ma ecco che è Guimard che lancia lo sprint. Zigzag di Guimard, un finale veramente emozionantissimo. Ecco che Bitossi cambia il rapporto. È ancora Bitossi in testa, è ormai vicino al traguardo, ma anche gli altri sono ormai vicini. Eh sì, Bitossi cambia rapporto, mette un rapporto più duro, comincia a fare più fatica. Io quei momenti me li ricordo come se li stessi vivendo adesso. È uno dei ricordi più brutti dal punto di vista sportivo della mia adolescenza. Lui tra l'altro ha il vento contrario, l'emozione si fa sentire, il suo cuore matto probabilmente lo sta per tradire, inizia il rettilineo finale e continua a girarsi per vedere cosa succede alle sue spalle, si rende conto che le cose non stanno andando come lui si aspettava, lo prende il panico, il gruppo dietro comincia a reagire, Merckx cerca di andarlo a prendere, però c'è anche Basso che sta iniziando a forzare. Probabilmente c'è una questione irrisolta tra i due, addirittura si dice che Basso abbia avuto una storia poco chiara con la cognata di Merckx. Insomma, il cannibale non rinuncia, ma non rinuncia neanche Marino Basso. E questa è la sorpresa. Ascoltate la telecronaca originale di De Zan. Ancora Bitossi. La sua pedalata era leggermente diminuita, ecco che ora Bitossi forza i tempi, forse si volta, forse ha ritrovato la condizione necessaria per questo ultimo sprint, per resistere. Bitossi è ormai a soli 100 metri dal traguardo, Bitossi si volta ancora, forza Franco, ma ecco che anche Basso esce fuori, ecco Basso, ha visto Basso, primo Basso, secondo Bitossi. Mortensen ha vinto Basso. Eh sì, è un momento orribile, De Zan che grida Bitossi, Bitossi, Bitossi, lui che continua a girarsi e c'è questa scena surreale di uno davanti che sta andando pianissimo e quelli dietro che stanno andando fortissimo e dopo 272 km e 600 metri Bitossi perde per qualche centimetro. Ha vinto Basso, che è un velocista micidiale, si infila e va a vincere, e Bitossi è solo secondo. Ecco, abbiamo Basso, finalmente Basso. Abbiamo detto Basso che non riesce a trattenere. Cosa succede, Marino? Dai, non piange. Oh. Uno sfogo, piange e anche... commozione è collettiva, perché veramente siamo tutti commossi. Mai più provato, no? Fatemi respirare un po', perché questo arrivo era massacrante. Tutti quanti non avevano fiducia di me, perché al turno non avevo vinto neanche una tappa. La sfortuna si aveva accanito su di me, diciamo, al Giro d'Italia tappa di Brocau sono andato a casa, però ero demoralizzato, così sono andato al Tour che non era in condizioni. Tutti dicevano che Basso era finito, invece io ho dimostrato a tutti che non sono finito. Eh sì, è un finale drammatico, perché Basso piange, forse anche perché si sente un po' in colpa, ma naturalmente quello che piange di più è Bitossi. Bitossi, abbiamo visto che lei sul traguardo, ed ecco, rivediamo, ecco, in questo momento. Ecco, questo è il momento in cui Basso alza le mani. Cosa pensate in questo momento? Guarda, io agli ultimi 50 metri non mi sono più voltato, perché ormai stavo per gustare proprio di alzare le mani, e quando ho visto a meno di 10 metri di traguardo passare Basso, ho provato la più grande delusione della mia vita. Abbiamo visto, ecco, no, vabbè, no, Franco. Franco, su Franco. Un fratello ha ucciso un fratello, scrive la stampa francese. Marino Basso dichiarerà che lui non stava tirando negli ultimi chilometri. C'è qualcun altro invece che dirà che Basso non tirava quando le telecamere lo inquadravano. Appena la telecamera della motocicletta si girava, si dice che Basso ricominciasse a tirare, passasse davanti, perché aveva un pochino contravvenuto, diciamo, agli ordini di squadra, che ovviamente dicevano che a tirare dovevano essere gli altri e gli italiani a spezzare i cambi. E invece è andata così. Il ciclismo, che è lo sport delle emozioni, dell'umanità, che regala tanta fama, in questo caso è molto dolce con lo sconfitto Franco Bitossi, e con il tempo probabilmente la delusione per questa vittoria mancata Bitossi la sentirà meno bruciante, anche se io credo che queste sono cose alle quali pensi tutte le notti prima di addormentarti. E con molto fair play, anni dopo, Bitossi dichiarerà così: no, Marino Basso e mi ha battuto ai mondiali, ma è rimasto, nonostante tutto, è rimasto un amico. È il gioco della vita, insomma, ecco. Ognuno fa il suo interesse e chi vince ha sempre ragione. Dopo la tremenda e leggendaria volata di Gap, Franco Bitossi prosegue la sua straordinaria carriera, diventa nuovamente campione d'Italia nel 76, nel 77 esordisce addirittura nel ciclocross e vince il campionato italiano, e nel 78, a 38 anni, si ritira dal ciclismo, poi diventa addirittura un grande giocatore di bocce, vince il titolo di campione italiano over 60 e vive a Empoli, e oggi è tuttora una leggenda vivente. E per parlare ancora di Franco Bitossi e della sua grande epopea, abbiamo con noi il nostro Pier Augusto Stagi, giornalista sportivo, un esperto di ciclismo, autore tra l'altro del libro Campioni miei, scritto con Ennio Doris, il libro nel quale dedica un capitolo proprio a Franco Bitossi. Pier Augusto, buongiorno. Buongiorno, ciao Enrico. Allora, abbiamo raccontato Bitossi, com'erano le sue caratteristiche di ciclista, cioè che ciclista lo definiresti? Guarda, lui era un corridore completo per le corse di un giorno, ecco, gli mancava la tenuta, la resistenza, non era un corridore adatto per le corse di tre settimane, ecco, delle grandi giri. Però era un corridore che si difendeva anche molto bene nelle corse brevi come la Tirrenia Adriatico, per tanto per citarne una. Andava forte in salita, tanto è vero che ha vinto delle maglie verdi al Giro d'Italia. Era un corridore completo, oggi potremmo dire anche un corridore moderno, come lui ricorda anche nel libro. Lui anche rimpiange un po' il fatto di non essere stato valorizzato per il problema che ha avuto, no? Il problema del cuore, delle aritmie. Perché dice, oggi probabilmente i grandi tecnici della comunicazione avrebbero valorizzato anche quello che in realtà per lui è stato un grosso handicap. Esatto, lui però diceva che si sentiva più a suo agio nelle corse a tappe perché dopo un po' si rasserenava e quindi in qualche modo sentiva meno la sua cardiopatia, che è un po' il centro del problema. Cioè, intanto, come sarebbe considerata oggi? Perché io, la mia personale convinzione è che forse si tratta più di crisi di panico che di cardiopatia, soltanto che eravamo in anni in cui non si parlava di questo, o no? Esatto, Enrico, io credo che tu abbia centrato il problema. Oggi lo individuerebbero assolutamente in questo modo e lo curerebbero. Pensa che 20 anni fa la depressione era non era considerata, anzi quando uno si sentiva giù, no? Dice, dai, su con la vita. Ecco, Franco Bitossi oggi sarebbe assolutamente accudito e avrebbe delle soluzioni anche farmacologiche ad hoc, esatto, per poter svolgere in maniera egregia la sua professione. Certo, dunque nel raccontare la carriera di Franco Bitossi ovviamente abbiamo dedicato ampio spazio a quello che è uno dei momenti, sarà perché io in quel momento avevo 15 anni, ero molto ricettivo, ma è stato uno dei momenti che mi ha fatto più soffrire della storia della mia vita di sportivo da televisione. Sto parlando ovviamente di Gap. Come la giudichi quella volata? Cioè, ci sono due fattori, no? Bitossi che arriva nel rettilineo finale e va troppo piano, e lì mi sa che rientriamo al punto precedente: ansia, poca dimestichezza con la gestione delle emozioni. E poi c'è il secondo punto, il gruppo dietro che arriva con Basso, che non sta certo a guardare. E che tra l'altro non sta certo a guardare e fa veramente il furbo. Tant'è vero che Marino Basso, in questo caso, mi ha raccontato qualche anno fa che, visto che le telecamere, c'erano solo le telecamere fisse, c'è stato un passaggio dalla telecamera in moto, c'è stato un vuoto, diciamo così, un nero, esatto, sì. E dopo c'è stato il collegamento con la telecamera fissa in attesa che si intravedessero i corridori, certo, no? In quel buco, in quel vuoto, in quel nero, Marino mi ha confidato, e l'ha confidato anche altri colleghi, che in realtà ha fatto il grande tradimento, ha tirato a non più non posso insieme ai belgi per arrivare alla volata, e quindi è stato a tutti gli effetti così un tradimento. Franco è stato tradito dal suo cuore, dallo stress, dalla paura di vincere, e Marino è stato spietato e ha colto l'occasione della vita. Inutile che io ti dica che a livello affettivo, beh, certo, come tutti io, e in quel caso sono per Franco, ci sono rimasto malissimo, avevo 10 anni all'epoca, me la ricordo molto bene, ci sono rimasto malissimo, mi ricordo ancora papà che mi consolava perché mi mise a piangere come non mai, perché tifavo in maniera profonda Franco Bitossi. Eh sì, poi io che avevo qualche anno più di te, ne avevo 15, e quindi vedevo l'amicizia, come dire, lo spirito di squadra come qualcosa di sacro, quindi per me insomma in quel momento ho imparato che la vita è un po' meno bella di quello che sembrava, no? Forse in quella giornata ho scoperto che le favole dipende da chi te le racconta. Esatto. Pier Augusto, ti ringrazio infinitamente, è stato piacevolissimo parlare con te, buon proseguimento. Grazie Enrico. Ciao. Eh sì, le favole spesso non esistono esattamente nella maniera in cui tu le vorresti ascoltare. E ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, o addirittura che anche nel momento in cui qualcuno ha spezzato le loro ali hanno saputo regalarci momenti emotivamente incredibili e sono rimasti consegnati alla storia. È il caso di Franco Bitossi, grande ciclista alle prese forse con i suoi fantasmi e con la sua paura, ma ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può dare un colpo d'ala che lo porta a volare in alto, magari sulle montagne, come il falco, come il gabbiano, come Franco Bitossi. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it oppure scrivete al nostro sito www.radio24.it o venite a cercarmi sui miei social, sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì.